Il punto di Stefano Folli. Sarà una campagna elettorale aspra e virulenta, ormai lo abbiamo ben capito. Per la prima volta fra i due protagonisti del bipolarismo, Berlusconi e Bersani, si è inserito un terzo soggetto, Monti, che ha davvero l'ambizione di scuotere i vecchi equilibri. Che ci riesca è un altro conto, ma ci sta provando, non c'è dubbio. L'incisività, diciamo così, con cui il Premier si è presentato sulla scena non era prevista da nessuno. L'insistenza con cui egli sta accusando la sinistra di essere conservatrice è qualcosa che non ha precedenti recenti, anche se Bersani e gli altri l'avevano considerato possibile. Significa voler sottrarre voti al Partito Democratico schiacciandolo tutto a sinistra. Ed è un'offensiva a cui i democratici non possono e non potranno non rispondere duramente. Mentre a destra Berlusconi ha ormai una sola carta per recuperare la Lega: indurire sempre più i toni, spostarsi sempre più verso un polemico populismo e da ultimo rinunciare alla candidatura a Premier per soddisfare la vera richiesta di Maroni.